nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 21 aprile, il sole in regione sorta alle 6.11 e tramonterà alle 20.02, la luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno e buona Pasqua da Armando Mucchino e Sebastiano Franco. Due volte all'anno Vita nei Campi fa il punto dell'annata agraria concentrandosi sulle intenzioni di semina che svelano tendenze e andamenti dell'agricoltura sul territorio. Questo è l'argomento di apertura per passare poi al corsivo di Enos Costantini che mette sotto indagine la fama del prato inglese che giudica quale palestra di insalubri e astoriche pratiche della chimica. A seguire una scheda sulle provvidenze in favore dell'apicoltura e la 16ª puntata sulla storia dell'allevamento bovino in regione. La rubrica dedicata ai giardini ci parla invece degli orti tergestini, manifestazione floristica, che a Pasqua e Pasquetta anima il parco di San Giovanni. Per la storia della grappa siamo arrivati a fine Novecento, quando arrivarono le prime attenzioni scientifiche per questo distillato. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Puntuale come ogni anno, ritorna la puntata dedicata alle intenzioni di semina, che sono la vera cartina di tornasole dell'andamento delle campagne agrarie in Friuli Venezia Giulia e non solo. E come al solito è venuto a trovarci Andrea Fabro del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia. C'è una riscossa del mais? Indubbiamente c'è una timida ripresa del mais. In questo momento in campagna stiamo completando le semine che in regione si stima essere intorno al 60% per quanto riguarda il mais. Io credo che dovremo chiudere questa campagna con una semina che dovrebbe essere superiore rispetto all'anno passato di circa un 4-5%. Questa è un po' la previsione che abbiamo in corso d'opera in questo momento. Nonostante le note vicende giudiziarie ancora in corso? Indubbiamente sì, ci sono alcune aree della regione che in questo momento hanno alcune situazioni che devono essere chiarite, ma indubbiamente nei comprensori storicamente mai edicoli della nostra regione, penso al Medio Friuli in particolare, vediamo, ripeto, una timida ripresa del mais. E la soia? La soia è una coltura che quest'anno potrebbe avere un calo di superficie, un po' per la certo non positiva sviluppo della campagna nella passata stagione. Indubbiamente la soia potrebbe in alcuni comprensori della nostra regione avere una riduzione di superficie. C'è stato il controsorpasso del mais? Sì, come in Formula 1, si sorpassano mais e soia. Quest'anno indubbiamente dovrebbe essere l'anno del mais, ci dovrebbe essere una superficie a mais superiore rispetto a quella che noi immaginiamo a soia di primo raccolto. Sarà un po' da capire come andrà l'andamento della soia di secondo raccolto. Poi c'è tra i parenti poveri, chiamiamoli così, che non sono le loro maestà soia e mais, il girasole. Sì, una coltura che in Friuli in questi ultimi due anni sta aumentando di superficie. Diciamo qualche anno fa era relegata in alcuni comprensori marginali della nostra regione, quest'anno, soprattutto quest'anno, vediamo uno sviluppo della coltura in più areali, in più zone della nostra regione, che storicamente non lo vedevano presente. Parliamo un attimo degli autunno vernini, per come è andata la stagione, quanto se ne è seminato e che qualità possiamo avere in campo adesso. Per quanto riguarda le superfici, indubbiamente la passata campagna autunnale ha permesso di seminare frumento e anche orzo in leggero aumento rispetto all'annata precedente. In campagna, nonostante la prima parte dei mesi invernali, gennaio e febbraio, siccitosi, indubbiamente comunque queste ultime piogge hanno risvegliato le colture che si presentano allo stato attuale sia frumento che orzo in maniera positiva. Quindi dobbiamo attenderci, se queste sono le premesse, una campagna buona, una buona campagna. Capitolo foraggi. Credo che per quanto riguarda le superfici siamo sostanzialmente stabili rispetto alle passate campagne. Ci sono alcune zone in cui la medica mantiene le sue posizioni, iniziamo a vedere nel comparto anche dei sovesci e dei foraggi la presenza magari di qualche essenza che fino a qualche anno non era presente, anche perché gli agricoltori in questi anni stanno indubbiamente migliorando quello che è la loro attenzione verso il suolo e tenersi e far sì che il terreno rappresenti veramente una miniera, una ricchezza per le loro produzioni. C'è qualche new entry, qualche coltura del tutto strana che comincia a far capolino sui nostri campi? Diciamo ancora no di particolare, abbiamo un po' sorvolato forse sulla colza che comunque è presente nella nostra regione, in questo momento è in fioritura quindi con un giallo particolarmente intenso. Credo che situazioni di culture nuove non ci siano, è indubbio che tutti stiamo valutando con attenzione quelli che saranno gli sviluppi della PAC, le nuove opportunità, le nuove linee guida che saranno date, e questo potrebbe portare nei prossimi anni sicuramente a una, credo, diversificazione o comunque a una presenza anche nei nostri territori di culture magari un po' meno usuali per i nostri ambienti. Il tanto decantato prato inglese gode fama internazionale, ma sinceramente non se ne comprendono proprio le ragioni, dato che, oltre a considerare tutti i fiori delle malerbe, pratoline comprese, è un concentrato di pratiche chimiche che Enos Costantini, in questo corsivo, vede come fumo negli occhi. Primavera d'intorno brilla nell'aria e per i campi esulta, sì che a mirarla intenerisce il core. In questa Pasqua dell'anno di poca grazia 2019 vogliamo usare i versi di un poco ottimista poeta in forma di augurio per gli ascoltatori. E visto che siamo di strada, approfittiamo del nome botanico della pratolina, che è Bellis perennis, divenuto pure titolo di un dimenticato componimento pascoliano. Chi vede mai le pratelline in boccia? E un bel dì le pratelline in fiore empiono il prato e stillano la roccia. In verità, a noi viene un colpo al cuore quando vediamo il rasa erba che come un impaziente cacciatore di scalpi trincia le pratoline sui prati che si vorrebbero all'inglese attorno alle villette monofamiliari. Per non dire dei diserbanti che annullano ogni forma di vita trasformando il prato in cemento verde. È una forma mentale che viene da lontano, dalla perfida Albione di tanti anni fa. Lassù il prato l'inglese non si chiama prato l'inglese, bensì lawn. Abbiamo sotto mano un libretto del 1972 intitolato Be Your Own Lawn Expert, che vuol dire pressappoco prato l'inglese fai da te. Tale libretto nell'anno suddetto aveva già venduto 1.400.000 copie solo sull'isola. In esso tutti i fiori più belli, pratoline comprese, vengono classificati weeds, cioè malerbe, erbacce da uccidere senza misericordia con weed killers, che all'epoca erano il fenoprop, il mecoprop, l'MCPA e il famigerato 2,4D, tristo componente del Agent Orange usato nella guerra del Vietnam. Il libro suddetto si interessa piuttosto della guerra ai lombrichi, da condursi senza quartiere spietatamente con la potente arma del carbaril, di cui loda la durata di efficacia, long lasting, nel tempo. A distanza di 47 anni, osiamo sperare che questi ferri vecchi della chimica siano relegati nella scatola dei ricordi. E, accanto l'augurio di buona Pasqua, formuliamo l'augurio di pronto ravvedimento e di pentimento per chi facesse ancora uso di tali arcaici strumenti. È vero, ho usato il prato l'inglese come esempio assai collaterale, ma anche come metafora dell'agricoltura moderna, quella che massacra il pianeta. Ma, vedete, in questa Pasqua di resurrezione mi sono scontrato con un proverbio indiano che dice così. Noi non ereditiamo la terra dai nostri genitori, la prendiamo a prestito dai nostri figli. Parliamo oggi di aiuti per la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Assieme a Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, vediamo di che cosa si tratta. Iniziamo dicendo che anche quando non si possiede terra, l'apicoltura è considerata a tutti gli effetti attività agricola e, tenuto conto della sua importanza fondamentale per le produzioni agricole, beneficia di specifici aiuti comunitari nell'ambito dell'OCM, cioè dell'Organizzazione Comune di Mercato. Il 22 marzo scorso la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il nuovo programma triennale per il sostegno al comparto, che prevede una spesa di 578.000 euro, dei quali il 25% a carico dei privati e la restante parte è ripartita in ugual misura fra contributi comunitari e nazionali. Il programma sarà realizzato dai consorzi apistici provinciali. E che cosa prevede? Allora, il programma è molto articolato e prevede l'assistenza tecnica agli apicoltori, il monitoraggio per la lotta contro le malattie e i parassiti delle api, in particolare la varroa, la razionalizzazione della transumanza, analisi qualitative del miele e altre attività per la sua valorizzazione, come ad esempio corsi di analisi sensoriale, degustazioni mirate, concorsi, eccetera. In ogni caso, molta importanza viene data alla formazione degli operatori sulle corrette tecniche di allevamento e di sfruttamento delle fioriture, siano esse da piante spontanee o coltivate. Quindi non ci sono aiuti diretti? Nell'ambito del programma comunitario i benefici sono indiretti. Tuttavia la Regione Friuli Venezia Giulia, con la legge regionale 6 del 2010, eroga anche finanziamenti diretti agli apicoltori, singoli e associati, per l'acquisto di alveari e famiglie, attrezzature e macchinari per la lavorazione del miele e anche per aiuti per la costruzione, ampliamento e ristrutturazione di locali dedicati all'attività. In questo caso l'intensità dell'aiuto varia da un minimo del 40 fino all'80% nel caso di giovani che hanno sede in zona svantaggiata. L'importo massimo erogabile attualmente è di 15.000 euro in un triennio, ma in futuro probabilmente potrà essere elevato a 20-25.000 euro in relazione alla disciplina UE sul regime de minimis agricolo. E oggi quanti sono gli apicoltori in Friuli Venezia Giulia? Al 2018 nell'anagrafe apistica erano censiti 1.352 apicoltori per un totale di oltre 29.600 alveari, in crescita del 6,5% rispetto al 2017. Moltissimi di questi sono hobbisti o comunque piccolissimi produttori. Per questo motivo un dato certo sulla produzione regionale non esiste. In funzione dell'andamento stagionale si stima comunque che possa oscillare fra le 800 e le 1.100 tonnellate all'anno. Nella scorsa puntata Sandro Menegon ha parlato ancora del ripopolamento con la razza Möltal e penso abbia terminato questo argomento post bellico nella zona prealpina e alpina. Sì, potremmo aggiungere che la razza Möltal allevata in territorio italiano dal 1939 venne rinominata pezzata rossa norica, utilizzando in seguito solo l'appellativo norica. A Gemona, nella Valcanale, la razza veniva utilizzata anche per il lavoro, generalmente affidato ai buoi. In particolare nella Valcanale, oltre all'utilizzo per i lavori aziendali, i buoi venivano utilizzati nelle operazioni di esbosco. E passati 10 anni dall'armistizio, come era evoluta la situazione? Nella zona alpina prealpina, confrontando il censimento del 1908 con quello del 1930, i bovini, rappresentati essenzialmente da vacche, risultavano leggermente inferiori. La situazione rispetto agli inizi del secolo risultava tuttavia diversa. A fronte dello spopolamento delle zone più disagevoli e poco produttive e dell'abbandono di diverse malghe ritenute non economicamente utilizzabili, le vacche risultavano più produttive e di maggiore taglia. Si torna dunque in pianura. La bigia alpina nel Friuli occidentale contava al momento dell'invasione austriaca dal 1917 38.720 capi, ridotti a 5.662 alla fine del conflitto mondiale. Per ripopolare le stalle, come già accennato, vennero introdotti animali piemontesi, modenesi e reggiani. Al fine di ricostruire la razza bigia in purezza, già nel 19 si riuscì a provare 42 tori, cui 12 risparmiati dall'invasione, e 30 acquisiti fuori regione, seguite da altri 15 nel 1920. L'introduzione delle prime trattrici nelle grosse aziende e la conseguente meccanizzazione della rattura posero in secondo ordine la predominante attitudine dinamica della razza e a partire dal 27 iniziò un'azione di miglioramento attraverso la formazione di nuclei di selezione a Pasiano e Prata e l'istituzione del libro genealogico. Al convegno zootecnico triveneco del 31 si delimitò l'area di allevamento della bigia alpina in provincia di Unine nei distretti di Sacile, Aviano, Pordenone, meno il comune di Zopola, e nel distretto di San Vito solo nei comuni di Chion, Spravisdomini e parte di quello di Sesto Recna. Per la rubrica dei giardini, Franca Merluzzi ci parla di Orti Tergestini, programmata oggi e domani al Parco di San Giovanni. Il parco è davvero una bella cornice per la manifestazione di fiori e piante, con espositori qualificati, un centinaio, molto frequentata, lo scorso anno oltre 10.000 visitatori. Per la sua storia straordinaria, San Giovanni è simbolo della trasformazione possibile di un luogo e della sua rinascita. grazie alla determinazione di coloro che ci hanno creduto, è diventato un luogo di apertura e di accoglienza, di verde e di rose, per la città e per tutti. Qui troviamo uno dei roseti più grandi d'Italia, ma non sempre fu così. Fin dal 1908 la collina ospitava l'ospedale psichiatrico provinciale, l'OPP, il manicomio, un mondo separato cinto da mura. Nel 1971 arrivò Franco Basaglia e tutto cambiò. Chiusi i vecchi padiglioni, seguì un progetto condiviso tra diversi enti pubblici per il recupero e la riqualificazione degli edifici del comprensorio. Finora sono 35 e ospitano dipartimenti universitari, musei, ambulatori, spazi teatrali e didattici. Nel parco è ritornato la vita e la bellezza, con tante, tantissime rose. Dai primi anni 2000 la cooperativa sociale agricola Monte San Pantaleone cura e incrementa il roseto diffuso, sulla base del progetto di Vladimir Vremez, paesaggista di formazione viennese. 22 ettari, caratterizzato da un forte dislivello, 80 metri circa, il parco è sempre aperto. Nella parte bassa sono state messe a dimora rose antiche, nelle scarpate varietà di rose coprisuolo e salendo una collezione di rose del periodo Liberty fino al grande roseto principale, inaugurato nel 2009, formato da rose moderne entro aiole regolari. E poi ancora rose cinesi e giapponesi, omaggio alla storia di Trieste e al suo porto. Le collezioni vantano circa 3.000 varietà, per un totale di circa 6.000 piante, di cui molte rare e provenienti da altri rosetti storici italiani, come quello di Cavriglia in Toscana, inframmezzate a clematidi, rosmarini e graminacee ornamentali. Per chi vuole capire quello che è avvenuto a San Giovanni, diversamente da altre situazioni in Italia dove le aree degli ex manicomi sono abbandonate, consiglio la lettura di un libro bellissimo, La rosa che c'è, a cura di Patrizia Rigoni, edizioni dell'Università di Trieste. Ricompone visioni e sintonie del progetto con un filo conduttore poetico, le rose della memoria e della rinascita. Buona Pasqua a tutti. Per la storia della grappa con Gabriele Cajazza siamo arrivati alla fine del Novecento, quando anche la ricerca iniziò ad occuparsi di questo distillato fino ad allora relegato nella pura artigianalità. Negli anni Ottanta del secolo scorso, il Consorzio per la tutela della grappa friulana avviò con l'Istituto di Tecnologie Alimentari dell'Università del Friuli un'importante collaborazione, mirata allo studio di questo particolare distillato, al fine di saperne di più, pur senza accantonare secoli di esperienza. Alla fine dello stesso decennio, in tutta la regione operavano più di una trentina di distillerie, per la maggior parte ubicate in provincia di Udine e l'80% di tipo artigiano, in grado di produrre per lo più grappe di media gradazione, solo in parte invecchiate entro botti di essenze lignee pregiate e in un quantitativo pari al 10% circa della produzione nazionale. L'ultimo ventennio del Novecento fu pure il contrassegnato dall'emanazione del regolamento numero 1576, con cui la allora Comunità Economica Europea riconobbe ufficialmente il nome grappa, attribuendolo definitivamente in esclusiva all'acquavite di vinaccia prodotta in Italia, che all'epoca costituiva il 40% circa della produzione nazionale e in un solo biennio aveva addirittura raddoppiato le esportazioni. Nel 1998 Valerio Rossitti curò e diede alle stampe un sobrio ma pregevole cofanetto contenente una precisa trascrizione di Luigi Belloni dei testi del medievale Libretto de Acqua Ardente di Michele Savonarola e soprattutto il libro Grappa Friulana senza compromessi con contributi di Carla da Porto, Cristina Silvano Domenis, Alessandro Sensidoni e dello stesso Valerio Rossitti. Fra i numerosissimi interessanti contributi al tema, nell'ultimo contributo al volume, autografo, prima di chiudere con un'esortazione a mirare più alla qualità del distillato che alla forma della confezione, no alla costosa guerra della bottiglia contenitore griffata da illustri artisti con esagerato aumento dei costi dietro l'alibi del collezionismo, l'autore curatore segnalò l'esistenza di una possibile patrona dei grappaioli, l'Immacolata, venerata nel 1896 in una cappellina laterale della chiesa carnica di San Giorgio Martire a Cabia, festeggiata l'8 dicembre con un efiestone davvero solenne in onore della Madonna de Sgnappe. Un patronato che non stupisce, certo, considerata la nutrita schiera di santi e sante patrone dell'uva, della vigna, del vignaioli e dei vini, che da sempre accompagna il settore vitivinicolo, dal patriarca biblico Noè a San Martino Vescovo, da Sant'Urbano Papa alla Trauben Madonna, la Madonna dell'uva, ben attestata anche nel nostro Friuli e, almeno idealmente, affine alla Vergine Cabiese, da poc'anzi ricordata. Ed ora con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Scambi positivi con prezzi ben intonati al mercato ortofrutticolo di Udine, dove l'insalata gentile e la lattuga a Trocadero vengono pagate nella media tra 0,80 e 1 euro al chilo IVA esclusa. La cicoria tra 0,90 e 1,10, le zucchine tra 1,20 e 1,30, la scalaura riccia tra 2,60 e 2,70, le melanzane tonde da 1,40 a 1,50, i pomodori italiani in grappolo tra 1,80 e 2 euro, i finocchi tra 1,30, le radicchie rosso tondo tra 1,50 e 1,60, quello di Treviso precoce tra 0,80 e 1,10, i peperoni gialli e rossi tra 2,30 e 2,50, i cavoli tra 1,20, gli aspargi tra 5 e 8 euro, i kiwi tra 1,50 e 1,80, le fragole da 3,50 a 4,50, le arance tarocco tra 0,90 e 1,70. Nel settore della pesca, in questo periodo che le condizioni meteorologiche sono buone, si rilevano effetti positivi con prezzi in ribasso e alla cooperativa pescatori di San Vito di Marano Lagunare le orate suddivise in piccole, medie e grandi sono quotate da 7 a 17 euro al chilo al netto dell'IVA, le sogliole da 10 a 25, le canocce a 16 euro il chilo, le seppie da 7 a 9, i laterini a 8 euro, i gamberetti di laguna a 16, i ghiozzi a 8 euro il chilo, i palombi da 8 ai 14 e i canestrelli a 4 euro il chilo. Infine, scambi leggermente attivi nel comparto degli avicunicoli con i polli a terra pagati tra 1,12 e 1,14 euro il chilo, tacchini maschi 1,40 e 1,42, le faraone tra 2,30 e 2,34, le anatre tra 2,35 e 2,39, i conigli oltre 2,5 kg quotati dal CUM di Verona tra 1,99 e 2,05 e il prezzo delle uova oltre 70 grammi è di 14 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Osmer, Livio Stefanutto, sentiamo cosa ci riserverà il tempo nella settimana entrante. Fino a lunedì, l'anticiclone che si estende sul continente europeo manterrà condizioni di stabilità. Oggi avremo una bella giornata di sole, con cielo che rimarrà sereno tutto il giorno. Le temperature massime saranno decisamente miti in pianura, un valore fino a 25-26 gradi, mentre sulla costa la brezza sostenuta dal mare manterrà temperature decisamente più basse. Anche domani la giornata rimarrà bella, con cielo sereno al mattino, mentre dal pomeriggio aumenterà progressivamente la nuvolosità per l'arrivo di velature via via più consistenti. Le temperature potrebbero subire una leggera flessione. Martedì una depressione presente sulle Baleari richiamerà correnti umide meridionali di origine africana ed un fronte interesserà la regione, portando cielo coperto. Avremo piogge intense sulle Prealpi e a ovest, abbondanti sulle Alpi e a est, più moderate verso Trieste. Neve sui monti oltre 1800-2000 metri circa. Sulla costa soffierà vento da est moderato, ma a tratti potrebbe girare anche da Scirocco o di Bora. Le temperature massime non supereranno i 15-17 gradi. Mercoledì mattina ci saranno ancora delle residue piogge sparse, ma in giornata si faranno strada ampie schiarite, specie su bassa pianura e costa, mentre sulle altre zone il cielo rimarrà nuvoloso coperto. Ci saranno ancora rovesci e temporali, più probabili in pianura e sulle Prealpi. Su pianura e costa soffierà vento da sud moderato. Il 25 e il 26 il tempo rimarrà incerto. Infatti, un fronte atlantico, preceduto da correnti umide mediterranee, potrebbe interessare la regione il 26 aprile, portando altre precipitazioni. Nel fine settimana il tempo potrebbe tornare a ristabilirsi, ma dato il periodo e l'anticipo della previsione, si consiglia come sempre di seguire gli aggiornamenti emessi dall'Osmer ARPA. Buona domenica e buona Pasqua! Termina qui la puntata odierna, vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana. Pasche di ulif, si yes fur dal nit, ovvero a Pasqua si esce dal nido, sia i primi uccellini come gli uomini dall'inverno. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Sebastiano Franco e tutta la redazione vi ringraziano, vi augurano ancora buona Pasqua e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.